Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Venerdì 12 febbraio, buongiorno di nuovo a tutte e tutti, siamo alla fine di questa quarta settimana di Liberi Dentro e Duradio. Io sono sempre Caterina, la conduzione di questo programma, ma qui con me c'è Ignazio De Francesco, buongiorno, da Montesole. Buongiorno, buongiorno a tutti e oggi venerdì dobbiamo dire un buongiorno in particolare alle persone di fede islamica e come per noi, per i cristiani, diciamo la domenica tradizionalmente, il giorno della preghiera, quindi un augurio di un giorno che sia anche di cura dell'anima oltre che del corpo. E dobbiamo dire anche auguri di buon Capodanno a tutti i cinesi che ci stanno ascoltando tra la città e il carcere, ma non solo i cinesi, anche i buddisti, perché oggi venerdì 12 febbraio è Capodanno cinese e anche Capodanno buddista. E infatti martedì scorso avete sentito l'intervista a Raffaello della comunità buddista italiana, e invece nella seconda parte della nostra puntata ascolterete Lucia che ci racconterà, Huang, che ci racconterà che cosa significa il Capodanno in Cina. Ma adesso io apro con voi sempre con le nostre notizie di Cronaca Bianca, raccontandovi questo progetto A Scuola di Libertà, l'edizione del 2020-21 della Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia. Sono coinvolti circa 8.000 volontari, di cui molti da tempo operano in progetti che mettono in relazione il carcere e la scuola, e quest'anno, a partire dall'11 novembre, è stata indetta la campagna A Scuola di Libertà, per l'appunto dedicata a iniziative volte a far incontrare e confrontare le scuole e le realtà del carcere. Questa è una cosa molto bella. Fra l'altro voglio ricordare che fra le nostre associazioni di volontariato c'è anche il Poggeschi per il carcere, che coinvolge gli studenti universitari per farli incontrare con il carcere, quindi anche quella è un'iniziativa veramente stupenda per far incontrare persone apparentemente che provengono da ambiti molto diversi, ma sotto, diciamo, la sfera della gentilezza, come ricorda spesso Papa Francesco, lo cito ancora, perché ha scritto questa bella enciclica, Fratelli Tutti, dove ci invoglia a essere sempre gentili l'uno con l'altro, la gentilezza anche come diritto, come pratica. E niente, si approfondiranno temi come i comportamenti a rischio, la voglia di trasgressione, percorsi fatti anche di piccole scelte sbagliate che portano a commettere reati anche che ci condannano per diverso tempo. E però, Ignazio, venendo a te, abbiamo visto in questi giorni la Tunisia, tutto ciò che ha prodotto la crisi sociale, ma cosa ci racconti, per esempio, del Marocco? Cosa si sta facendo ora? Il Marocco, da questo articolo che prendo dal 20 gennaio, Le Matin, il giornale in francese del Marocco, dà una notizia, insomma, dà uno squarcio, apre uno squarcio su un altro aspetto dell'emergenza Covid, e cioè la chiusura dei bagni pubblici. C'è stata la decisione del governo di chiudere questa che è un'istituzione non solo di pubblica utilità, il bagno, no, ricordiamoci che una volta era così, non c'era l'acqua corrente in casa, quindi il bagno pubblico svolgeva una funzione fondamentale per l'igiene, però anche una funzione sociale molto importante. Allora il fatto di stare insieme nei bagni pubblici, uomini con uomini, donne con donne, diventa pericoloso per la salute, li hanno chiusi, ma ci sono 140.000 impiegati e operai e personali di questi bagni che sono sulla strada. Quindi ci sono state delle proteste, ci sono state delle manifestazioni, e quindi noi speriamo che ben presto finisca questa cosa, ci arrivi questo vaccino a tutti quanti, anche per riprendere questa cosa, perché è l'occasione anche per dire quanto è bello la tradizione del bagno pubblico. Noi non ce l'abbiamo, uno va in bagno, si fa la doccia, è finito, al massimo fischietta sotto la doccia, te quel che può fare è quello, canticchia. Invece io ce l'avevo vicino a casa, a Damasco, un bellissimo bagno pubblico turco davanti alla chiesa del quartiere armeno, e si va a chiacchierare, si va a passare un pomeriggio insieme. Ce ne sono, credo, anche in Italia, sono nati dei bagni pubblici orientali. Quindi è una notizia che ci dice qualcosa dell'emergenza, ma anche ci racconta un pezzo della cultura di un paese bello e ricco come il Marocco. E parlando sempre di cultura, il nostro stacco musicale di oggi, sempre molto poetico sul tema amoroso, anche spiegami perché sempre questo tema. Ma sì, perché gli arabi poi sono molto romantici, quindi quello che io come io li ho conosciuti, molto romantico, quindi la canzone d'amore va sempre forte. E l'ultimo brano è proprio un brano proprio di quelli strappacore, diremmo noi, di Farid El-Atrash, Ya Habibi, Ya Ghaiben, o mia amata o assente. Ascoltiamolo. حبيبي يا غيبي وحشني يا غالي يا حبيبي يا غيبي وحشني يا غالي لو أغمض وأفتح لو أغمض وأفتح وألاقيكم جايين جايين يا حبيبي ألاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين E sempre sulle note di Farid al-Atrash continuiamo il flusso delle nostre notizie di cronaca bianca, siete sempre su Liberi Dentro Eduradio. E raccontandovi ora, sempre in tema di mascherine, di Covid, ieri abbiamo parlato delle mascherine prodotte dai detenuti del carcere di Reggio Emilia, oggi parliamo invece di mascherine prodotte per i detenuti del carcere di Crotone. Infatti questo progetto nato Mascherine in Sicurezza, il titolo, realizzato in collaborazione con UITEC Calabria e finanziato da Banca Intesa San Paolo, ha donato una prima tranche di 6.000 mascherine alla casa circondariale di Crotone per migliorare la sicurezza e la salute dei detenuti. Quindi un gesto veramente molto, molto, molto bello. Le mascherine filtranti composte in TNT 100% polipropilene e DPI di prima categoria sono state realizzate dalle dipendenti in cassa integrazione di Davide Sposa, Atelier Reggino. Quindi c'è stata proprio un'opera di partecipazione civica per fare del bene alle persone ora recluse. E pensate voi che alla donazione si aggiungerà un'ulteriore donazione di altre 400 mascherine per coprire tutto il numero di detenuti del carcere di Crotone. Ma Ignazio, passando al Galateo arabo, credo che Galateo significhi anche, come dire, tutelare i più deboli. Quindi che Certo. cosa ci può dire la Costituzione tunisina su questo? La Costituzione tunisina ha un articolo, ancora un articolo che è una perla, bellissimo, è il 48. Poi le faremo anche le altre, le vedremo tutte un po' di quest'area e in parallelo con la nostra italiana. Quindi non tiro la corda solo per la Costituzione tunisina, ma perché in questo momento credo che sia anche un incoraggiamento alle persone della Tunisia a tener duro, perché una Costituzione così bella che è un orizzonte molto luminoso. Allora dice il 48, Tahmi Daula al-Ashkhas Zawi al-Iaqa min kulli tamiz. Allora difende lo Stato, le persone che sono portatrici di una disabilità, da ogni forma di discriminazione. E poi dice, Likulli muwatin zi iaqa al-haq fi intifa' hasab tabi'ati iaqatihi bi kulli tadabiri lati tadmunu lahu al-indimaji al-kamil fil mujtama' wa al-dawla اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك. Allora dice, ogni cittadino che è portatore di una disabilità ha il diritto di avvalersi, secondo la natura del proprio handicap, di tutti gli strumenti che gli consentano la partecipazione completa, l'appartenenza in dimagine completa alla società. E poi lo Stato deve prendere tutte le misure necessarie per realizzare quello. E quindi vediamo sempre la parte sostanziale. Non basta dire avete diritto, dovete farlo, ma tu Stato lo devi fare, perché altrimenti è facile parlare e poi non agire. Quindi è molto bello che in una Costituzione sia scritto che noi dobbiamo andare al passo, non lasciare nessuno indietro. Non lasciare nessuno indietro. E vorrei anche dire, questo è una cosa è un altro lato della cultura araba, che ha tanti lati belli, luminosi, però anche altri aspetti. Io ho vissuto tanti anni in Palestina, in Siria, in Giordania, in Egitto, e mentre c'è una rispetto così grande per quello che si ammala, è una persona sana, così poi gli viene un cancro, una cosa brutta. Invece c'è una grande vergogna nei confronti dell'handicappato, nel senso che li si nasconde in casa. E quindi magari le persone muoiono in casa perché li si vuole difendere, si ha paura che, di esporli magari all'onta, All'udibrio, sì, certo. all'udibrio, a un sorrisino, una cosa. E quindi questa è una cosa che le società arabe devono superare anche con l'aiuto delle Costituzioni. La Costituzione ti dice: guarda, che sei nato con un handicap, ma tu sei un cittadino come gli altri. Quindi è molto importante che la Costituzione ci incoraggi in questo senso. Certo, anche perché se le nostre leggi ci ricordano l'uguaglianza, cioè le leggi sono uguali per tutti, ma siamo tutti diversi. Cioè, Verissimo. queste due parole che ci abbracciano, no? La legge è uguale per tutti, ma siamo tutti diversi. Quindi lei ci copre come una coperta nelle nostre diversità. E questo adesso mi dà l'aggancio per lanciare l'ultimo brano musicale di questa mattinata. Uguali e diversi di Gianluca Grignani, e io e te, Ignazio, ci rivediamo sempre lunedì Sì, prossimo. se posso dire, Xinyan Kuaile, non so se l'ho detto giusto, se c'è qualche ragazzo Non cinese mi so. correggerà, che vuol dire felice anno nuovo alle persone cinesi che celebrano il loro capodanno. Grazie, noi ci vediamo dopo con Lucia Huang. Grazie a tutti. Né più bianco, né più nero. La guerra sono stanco. Ho fatto un sogno più sincero. Ho fatto un sogno che ti canto. Mi svegliavo stamattina. Faccia e corpo. E rieccovi su Liberi Dentro Edu Radio, continuiamo il flusso della nostra puntata con un ospite, lei è Lucia Huang. Ciao Lucia. Ciao Caterina, Benvenuta buonasera, su grazie, Liberi grazie. Dentro, su questa Sì, nostra trasmissione ok. tra la città e il carcere. E siamo con te oggi, che è una data particolare perché è il 12 di febbraio ed è la data in cui si celebra il Capodanno cinese, che come sappiamo è una festa, siccome va in base al calendario lunare, cambia tutti gli anni e quest'anno capita in questa data qui. È una festa chiamata anche festa di primavera oppure Capodanno lunare e mi interessava parlarne con te perché noi ci dimentichiamo che nel nostro paese i cinesi in Italia sono tanti, sono quasi, stando alle cifre dell'Istat del 2019, fine del 2019, quasi 300.000, e l'Emilia-Romagna è la quarta regione che ha, in base al numero di cinesi nelle regioni, Ok. ne ha tantissimi praticamente. La prima è la Lombardia, poi dopo ce ne sono altre, poi c'è l'Emilia-Romagna. E Sì. quindi quello che mi interessava capire con te oggi era presentarci un po' il significato culturale di questa festa, raccontarci che cosa fate. Comunque, Capodanno cinese è ogni anno sempre fra gennaio e febbraio, perché Cina non usiamo non solo quel calendario come tutti quanti, ma anche usiamo un calendario lunare, calendario contadini, diciamo così, e quindi ogni anno che il giorno di Capodanno si cambia. Ok, quest'anno proprio è il 12 febbraio, è Capodanno cinese. Quindi, quando Capodanno cinese tradizionale, che tutti famiglia che stanno insieme, quindi mangiare anche se lavoro fuori, lontano da famiglia, oppure che studiare lontano da famiglia, sempre tornare. Sempre tornare. Quella sera, come una cena, l'ultimo giorno dell'anno, sempre mangiare Fate il una cenone cena come uguale, noi, sì, una cena molto abbondante. uguale, sì. E poi quando arriva il nuovo anno, come qua, fiochi, poi tutti auguri, ma c'è una cosa anche. In Cina, non solo così, i genitori preparano una busta rosso. Dentro si mette contanti per bambini. Per bambini. Rosso perché il rosso è il colore di buon auspicio, giusto? Sì. Poi dentro i contanti, sempre i soldini sempre con numero 8, diciamo così. 8, 18, 80, oppure 800, tipo così. Perché Tutti multipli di 8 è 8, sì, è un sì, numero il numero fortunato. di 8 è sì, è un numero che è più fortunato, diciamo così. Comunque è durata 15 giorni. Addirittura, proprio una Sì, festa sì, sì. sentita. Sì, sì, sì. Quindi di solito che quando fino il giorno di 15 gennaio, diciamo così, ok? E dopo di 15 gennaio le scuole ricomincia. Adesso già le scuole già festa adesso, già Sono già chiuse, sì. già chiuse, è già per vacanza. Sì. Quindi adesso, cioè, adesso la Cina si sta preparando a questa festa importantissima, cioè ci sono già le vacanze di Sì, sì, Capodanno. È una sì, sì. cosa molto bella. E quest'anno in particolare capita, cioè siamo nell'anno di passaggio tra l'anno del topo, perché va in base al segno zodiacale, no? E l'anno Sì, del sì, sì. bue o del bufalo, mi pare, no? Bue, diciamo, bue. Noi, sempre idea, comunque, l'anno di bue, sempre per forza, forzarsi. Così. Speriamo, speriamo che quest'anno proprio forza. Che si ritrovi più Così. vigore. Ti chiedo Sì, di, sì. siccome siamo a metà della nostra intervista, ti chiedo di lanciare un brano musicale molto legato magari a quello di cui stiamo parlando, proprio al Capodanno cinese. Cosa lanceresti come brano? Ah, sì. Se io c'è una canzone, si dice Tong Yi Shou Ge, vuol dire che se stessa canzone, e questa vuol dire che noi tutti il mondo, non solo che tu stai in Cina oppure fuori Cina, tutti il mondo noi cantiamo stessa canzone, Bene, diciamo così. ascoltiamola. Sì, Musica. ok. Eccoci su Liberi Dentro, sempre con la nostra ospite, Lucia, eccoci di nuovo. Grazie. Stiamo parlando del Capodanno cinese in questa particolare data e volevo chiederti, allora, in questi giorni che cosa farete di tradizionale? Ci sarà un cenone, mi dicevi, ma sì, di tradizionale cosa si fa durante queste due settimane? Ok, perché noi sicuramente, dopo quel cenone dell'anno, inizia il 1° gennaio, noi sempre per girare, diciamo che andare incontro ai parenti, e poi che c'è anche una cosa, se quest'anno è come che due ragazzi o due persone che appena matrimonio, quindi dopo Capodanno sicuramente c'è una giornata, bisogna tornare la famiglia di la famiglia di la femmina della moglie, sì, della moglie, sì, tornare lì, e quindi loro fanno un'altra festa proprio per quello. E se c'è perché il Capodanno cinese abbastanza è proprio per contadini, no? Quindi c'è anche, perché festa Capodanno c'è anche tipo che festa di primavera. Vuol dire inizia la primavera, quindi anche i contadini, loro o in famiglia, che entro questi 15 giorni, quella festa, loro invitano le parenti, viene, e per, vuol dire che comincia quest'anno, festa si chiama così, o aprire quest'anno, no? Si dice Kainian è aprire questo anno, quindi vuol dire cominciare quest'anno, fa una festa in modo tradizionale. Si comincia l'anno con una bella festa, quindi c'è tutto un significato che richiama al significato naturale del risveglio della terra, dell'incontro con i parenti. Sì. È un significato molto molto bello. Ti chiedo in chiusura della nostra puntata di salutare chi ci ascolta tra la città e il carcere, in particolare magari un messaggio in cinese e poi ce lo traduci. Sì. Ok, quando ho visto questo sappiamo è già Capodanno cinese. Perché questo come è sorti, questo è sempre vuol dire mantenere tanto sorti, diciamo così, sempre per bello. E quando noi, Capodanno cinese, e noi parliamo sempre xin nian hao oppure chun jie hao. Xin nian hao vuol dire buon anno, chun jie hao buon Capodanno. Poi ho anche gongxi fa cai. Gongxi fa cai vuol dire che arrivano tanti guadagni quest'anno. Poi gongzuo shen li vuol dire che lavoro sempre funziona. Shenti jiankang vuol dire salute sempre buona. Ecco. Quindi stiamo così facendo un augurio in generale di buona salute, buon guadagno, buona riapertura, ma buon guadagno anche di non soltanto di ricchezza in senso materiale, ma di ricchezza in senso anche proprio interiore, spirituale. Quindi è un augurio bellissimo. Grazie Lucia. Grazie. We'll be right back. orientale che raccontano emozioni, sguardo limpido di aprile, di dolcissime illusioni, tutto scritto su di un viso che non riesce ad imparare come chiudere fra i denti almeno il suo dolore. Più di 500 notti già mi sono innamorato di una bocca appena aperta e di un respiro senza fiato. Se potesse questo buio cancellare l'universo, forse ti potrei guardare e non sentirmi così perso. Ma tu dormi ancora un po', non svegliarti ancora no, ho paura di sfiorarti e rovinare tutto. E rieccovi, ci diamo i saluti di fine puntata, ma anche i saluti di buon weekend. Senza dimenticarvi gli appuntamenti dei laboratori di Liberi Dentro Eduradio a partire da questo pomeriggio sempre alle ore 17, ma anche sabato e la domenica sulla televisione alle 10 del mattino e sempre anche alle 17. Non perdetevi quindi gli appuntamenti con Note Libere, con il Teatro del Pratello, ma anche con il FOMAL, Chef al Fornelletto. Mi raccomando, seguiteci, vi accompagniamo tutto il fine settimana e noi con i buongiorni di Liberi Dentro ritorniamo sempre lunedì alle 9 sulla radio e alle 10.30 su Teletricolore. Un saluto e buon weekend.